125, 70, insomma un sacco di frammenti sonori, 400 rotti, perché adesso non mi rivolgerà più la parola. Esatto. Poi la madrina del coxo, la Francesca W. Clementoni, e grande. E mi sa che di Radio Città Fujiko li ho detti tutti, poi ne ho avute anche altri. E adesso indovina un pochino dove ti metto il W. Tra la Andy e la Jo, che è qui, che dopo le mille peripezie di me che ritorno in regia dal vivo, siamo riusciti finalmente a dire il suo nome per intero. Te la presento, Stefano W. Pasquini, ecco a te la co-conduttrice mega galattica del mese di febbraio, Andy in veste W. Jo. Ciao a tutti, ciao Stefano. Ciao Andy, mi hai chiesto l'amicizia stamattina. Sì, su Facebook. Perché non ti conosco, non ti conoscevo e quindi ho pensato, visto. Vedi com'è educata? Sì. Com'è no, proprio. Infatti, Vuoi chiedere qualche cosa, tipo la tua classica domanda alle conduttrici donne? Se sono figa? Gnocca. Ah, scusa. Vedi, è preparatissima. Tutto. Ho studiato. Sì, no, sono mi era venuta gnocca. In mente la domanda che faceva sempre il nostro mago Tony Cioli Puviani, che sarebbe: chi è sta spaventosa? No, vabbè. Non è una domanda da fare. Effettivamente, però, considerando che paesaggi cioè la storia della spaventosità in seno agli stanzoni, alla storia del coxo, ci sta, però bisogna un attimo, insomma. Vabbè, io sto andando a vedere su Facebook se sei gnocca, intanto. Sì, sì, ma guarda e verifica, poi fammi sapere. Comunque sono certa di quello che ti sto dicendo, non ho dubbi, insomma. Già questa cartella gender erotica mi suona bene. Ecco, ottimo. Va bene, allora non avremo problemi. Ho fatto bene a non venire con i miei figli. Dovevo venire con i figli, soltanto che uno dei due si è rifiutato, allora. No, ma perché non vogliono salire sul coxo i pargoli, i pasquini? Ma perché sono pigri, sono del cancro tutte e due, per cui. Ah, davvero? Bizarro. Mamma mia. Sì. Ma poi io sto simpaticissima ai bambini, quindi beh, magari giovedì prossimo. Infatti dai magari giovedì prossimo. E intanto però non avremo problemi ad avere l'ascolto di Pasquini, che ci messaggerà e ci ascolterà, visto che avrà scoperto da Facebook che sei super mega gnocca, e quindi ci seguirà, ci manderà i messaggini e poi magari ci risentiamo, così ci dai consigli su come migliorare per le prossime puntate. Va bene? Caro capo, certo. Coxico, molto volentieri. Sto guardando il mondiale antirazzisti. Allora guarda, ascolta, e adesso sappi che attraverseremo questa è la puntata di presentazione del co-conduttore mensile, e quindi questa puntata è dedicata a Andy Jo in veste W. Jo. E cominciamo con un branino. Che cosa mettiamo come branino? Cominciamo subito con quello che ti riguarda? Mushi, dai. Con una performance, dici? O con una musica? Facciamo con Porno Soccorso. Vai, dai, subito, via. Aspetta che lo trovo. Ma non lo trovo, gli ha cambiato nome? No. Quanto dura Porno Soccorso, ti ricordi? 5 minuti. Ok, allora è Altro Parlamento. Ah no. In che senso Altro Parlamento? Trovata. Pronto? Porno Soccorso? Pronto? Porno Soccorso? Sì, mi dica. Salve, io chiamo perché avverto un forte, forte dolore. Proprio qui sul petto, dove mi si sono impiantate queste tette biscottate. Mi dispiace, ma io non so come aiutarla. Sono solo la cantante. Sì, in questo momento sono occupata. Sì, ma a me mi duole. Deve essere tremendo. Beh, senta, facciamo così. Ci spalmi su un po' di burro e marmellata e vedrà che si sentirà subito meglio. E poi scusi, ma lei deve stare solo contenta, perché adesso è una tetta biscottata. Io? Sì, sì. Proprio io? Proprio lei. Ospedale, ti voglio raccontare dei miei disturbi. sono complessa. La gente non mi capisce, non mi conosce, per questo parlo spesso con me stessa. Dammi un'emozione porno, fammi uscire di senno, rendimi felice per un giorno. Dammi un'emozione porno, fammi uscire di senno, rendimi felice per un giorno. Meteoropatica, qualcuno dice pure simpatica, non ce la faccio più, il senso di colpa mi attanaglia, ho l'ansia a palla, è grave in questo momento. Verme solitario. L'ho incontrato al ristorante e poi lui ha deciso di venire a stare da me. Ora guardiamo la tele insieme. Io mi addormento e lui comincia a mangiarmi lo stomaco di dentro. Dammi un'emozione porno, fammi uscire di senno, rendimi felice per un giorno. E spingere un tasto, i polpastrelli affondano nell'impasto, quando guardi giù c'è scritto attenzione a tu, pericolo di vita, non tirarti indietro altrimenti sei morto. Ebbene sì, alla 128esima puntata di Coxo Spaziale, sul 128esimo Coxo è salita Andy Jo, che se qualcuno avesse avuto dei dubbi era, è stata una delle membre fondatrici, membre fondatrici delle Tette Biscottate, il gruppo per cui io sono diventata groupie per la prima volta nella mia vita, sotto il palco a lanciare i reggiseni, vai! Sì, ti vedevamo tutta scatenata e nuda lì sotto il palco. E tu eri insieme a altre tre Andy e a una, la minore. La minore, esatto, perché al tempo che, diciamo, ha iniziato a far parte del gruppo, lei era minorenne, quindi aveva 15 anni, quindi non poteva essere altro che la minore. E invece le altre Andy chi erano? Andy Barozzo, la batterista, Andy Lipu Google, la chitarrista, e Andy Lapibi, l'altra cantante, poi c'era la violinista che si è aggiunta dopo, Andy Violino Winehouse. Detto questo, la musica è parte integrante delle tue attività, però non solo. Infatti, esatto, tu sei anche performer e a parte che in questa formazione che abbiamo prima detto in fuori onda, Coxo post Coxo Rock. Sì, facevamo post Coxo Rock e anche un po' di punk Coxo. E io adoravo, sì, vedervi in scena perché avevate questi costumi, cioè era molto performativo, quindi c'era sia la musica che anche teatro altre cabaret. Esatto. E infatti la mia formazione, ma anche quella della batterista, che siamo stati, diciamo, noi le fondatrici del gruppo, anche la parte più creativa, veniamo tutte e due dal teatro. Io ho iniziato a fare teatro a 15 anni con delle compagnie di Perugia, la mia città di origine. E poi ho fatto il DAMS, e poi ho lavorato con delle compagnie di teatro, tra cui il Teatro delle Albe. Ho lavorato anche a Berlino con la Volksbühne, insomma in varie compagnie. Poi ho fatto delle cose da sola all'Atlantide. Poi abbiamo fatto il gruppo, poi il gruppo si è sciolto e io ho, diciamo, iniziato a fare delle performance teatrali, però cerco di metterci anche la musica in qualche modo. Non lo so. E di questo non solo ci racconterai, ma ci hai portato anche qualche estratto. Esatto. Sì. E vorrei prima di andare oltre spendere due parole sulla Andy batterista. Andy Barozzo. Esatto, perché mi sa che è lei che è stata qui anche ospite come componente di un altro gruppo rock. E comunque, a parte questo, perché erano amici, era un gruppo amico di Pasquini, io adesso faccio un po' fatica a ricordarmi il nome. Vado un attimo, faccio il muro. Di quelli che facevano cover? No, erano uomini. Uomini, tutti uomini, lei l'unica donna. Sì, e non facevano solo cover. Beh, dopo chiamiamo Pasquini e glielo chiediamo. Chiediamoglielo, sì. Sì. Detto questo, io mi ricordo benissimo di voi due, ancora ben lungi, ben prima delle tette biscottate, che vi vedevo come una sorta di coppia icona in giro per Bologna. Poi non lo so se, insomma, coppia in che senso, ma sicuramente coppia di lavoro. Sì. Ed avevate questo aspetto estremamente caratteristico, in particolare Andy Barozzo ricordava un sacco l'attrice che fu la moglie di Giulietta Masina. Esatto. Ma le sai tutte, tu sì che hai impegnato bene gli anni al DAMS. Io invece ci hanno messo 18 a laurearmi, però come niente fosse. Vabbè. Mi fa molto piacere che ti ricordi di questo periodo, che è stato un periodo bellissimo, delle foto stupende, tipo perché andavamo in giro vestite da vari personaggi, non soltanto da quelli, ma da tipo Charlie Chaplin e il Monello. Abbiamo delle foto che ci hanno fatto dei fotografi che passavano da lì, meravigliose. Poi un po' lavoravamo, facevamo tipo le statue, queste cose così, però tutto molto improvvisato, insomma. Era un'altra Bologna. Era un'altra anche, Bologna, vero? Erano i primi anni, ovviamente completo entusiasmo, stai a Bologna senza i genitori, è tutto bellissimo. Stavamo facendo degli esperimenti teatrali, artistici, dai. E mi ricordo che dopo avervi visto attraversare un po' a vari livelli l'ambito del performativo, mi siete capitate davanti sul palco come tette biscottate e vi ho amato subito e ancora di più. E va bene, detto questo, è interessante fare questo attraversamento per vedere anche che tipo di mondi andremo a far salire sul coxo nel corso del mese attraverso le conoscenze e le frequentazioni di Andy Joe, e alla fine volevamo lanciare anche il giochino 333 180 94 94, non so che cosa, per chi indovina come si chiama Andy Joe. Nome di battesimo, giusto? Certo, in questo caso ho anche preparato un piccolo, diciamo, aiuto che, vabbè, insomma, un minimo. Comunque è un nome conosciuto ma non famoso. Conosciuto ma non famoso. Ok. Allora, cosa vogliamo fare? Ascoltiamo un piccolo estratto da un tuo set performativo e poi ci racconti un po' di cosa si trattava? O... Come vuoi, io lo racconto. Sì, dai, dopo, dai, mandiamolo. Allora, I Love Shopping. Perfetto, lo ascoltiamo giusto un paio di minutini, poi ritorni e ci racconti e poi andiamo in pubblicità, la mega galattica pubblicità delle 7:30. Allora, I Love Shopping, ma sei sempre Andy Joe quando ti esibisci? Sì, I Love Shopping, Andy Joe. Io sono una ragazza bella, intelligente, ma semplice, acqua e sapone. Io adoro lo shopping. Io adoro lo shopping tutto il giorno. Inizio il lunedì. Mi sveglio presto e vado in via Indipendenza. Da Cinti gli sconti. Scarpe con pietre colorate, euro 79. Da Zara la blusa gialla con le rose a euro 29,95. Gonna gialla con i rombi a euro 49,95. Da Calzedonia reggiseno blu e giallo a 30 euro. Sisley maglia grigia a 39,95. E poi per la ginnastica fuso da Tezenis a 9,90. Ma trovo anche un push-up rosa super imbottito a soli euro 14,99 e lo prendo. Da Solaris, occhiali da sole Vogue a 139 euro. Poi c'è l'offerta sull'iPhone, invece che a 399 euro, lo posso avere a 0 euro se faccio l'abbonamento per 10 anni a 40 euro al mese. Ah, adesso vorrei solo la borsa nera rettangolare di Vuitton, ma costa 2660 euro e non me lo posso permettere. Allora compro da Princess un bel paio di scarpe con la zeppa a righe colorate rosse e bianche, euro 145. E un bel libro alla Feltrinelli, I Love Fashion, in sconto a soli 9,90 euro. La sera, a casa, provo tutte le cose che ho comprato. Sono felice e vado a letto. Oggi è martedì e vado da Natura Bella, un negozio di creme. Lì hanno 10.000 creme. Quale sceglierò? Quella col catrame al profumo di mela verde dell'India? Oppure quella col petrolio all'odore di fico rosso della Toscana? Quale sarà quella più adatta alla mia pelle? Non so scegliere. Per fortuna ogni giorno compro i giornali che mi sanno consigliare. Glamore, tonta moderna, di come deficiente. Alla fine mi decido e prendo una crema francese con ingredienti naturali al 95% del 10% del prodotto. Oh, uffa, uffa, che noia, che fastidio! Questi 2 chili di troppo sui fianchi. D'inverno ho mangiato troppo. Meno male che da oggi inizio in piscina la danza sull'acqua tiepida, incrociata alla kickboxing coi calci dolci al muro che sviluppa proprio quel muscolo della chiappa destra più vicino al fianco. Così sarò più tonica e in forma per la prova costume di quest'estate. La sera sono davvero stanca e vado a letto. Il mercoledì adoro, dopo lo shopping, tornare a casa, fare un mucchio di tutte le cose che ho comprato, spargerci sopra della benzina e dargli fuoco. Io mi siedo per terra e guardo il falò con occhi pieni di odio. Bentornati su Radio Città Fujiko, Coxo Spaziale 128, e sono fierissima di presentarvi la super mega galattica co-conduttrice che ci accompagnerà per tutte le puntate del Coxo di febbraio, Andy Invest W Joy. Oh yeah! E questo era un estratto da una sua performance, I Love Shopping. Ci racconti qualche cosa di più? Allora, io non lo so, questa è una performance che parla della storia di una donna dall'adolescenza, diciamo alla terza età, raccontata attraverso tutti i giorni della settimana. Poi io uso questo metodo che, non so, insomma, è venuto fuori così, che registro la voce e io faccio delle azioni con il corpo e con dei costumi particolari. Tra l'altro ringrazio Valentina Cencetti perché per questa performance ha fatto lei il costume ed è una cosa veramente spaziale, coxo spaziale oserei dire. Meraviglia, ma possiamo mandare una foto da domani visibile su, certo, www.coxospaziale.blogspot.com? Ovviamente, grande. Ovviamente. E niente, io lavoro comunque sull'identità di genere, su cosa significa essere donna, femmina oggi. Mi definisco un'artista queer, quindi che va oltre il genere maschile e femminile, e poi soprattutto lavoro molto con il fisico, il corpo, che è anche per me una parte fondamentale proprio del mio lavoro e della mia vita, perché sono anche una sportiva. Sono rimasta abbastanza incuriosita dalla precisione aritmetica di questo testo e volevo sapere un po' come era nato, se possibile. Mi è piaciuta molto la scansione, la pulizia poi se sono segreti alchemici non puoi dirci nulla, io alzo le mani e corro ai ripari a chiederti qualcos'altro, tipo non lo so. No, figurati. Esattamente non te lo so dire nemmeno io. Comunque, diciamo, tutte le mie cose nascono un po' dalla rabbia, che io riuso ovviamente, siccome è un sentimento molto forte, e riuso per delle cose belle, non, insomma, oltre a sfogarle in palestra. Quindi vai in palestra, sì, per davvero? Sì, sì, e faccio box. Ah, quella kickboxing in aqua gym? No, faccio box seria. Quindi c'è il caso che magari uno dei prossimi giovedì ti veniamo arrivare con l'occhiore nero? Poteva capitare prima, adesso quest'anno non li faccio più gli incontri, quindi sarà difficile. Vabbè. Mi spiace. Peccato. Tanto comunque non ci avrebbero visti, dai. Vabbè, ma sul sito poi dobbiamo pubblicare le foto. Pubblicheremo anche le foto di questa prima serata di febbraio 2016 che inaugura la seconda co-conduzione coxica con... io mi impallo. Andy W. Joe. Bravo. Oh yeah. Sì, wow. Che ogni volta che parte, cioè mi parte proprio il nastro sulla super mega co-conduzione galattica, è un po' così. Poi io sono un po' stranita perché settimana scorsa sono stata setup a registrare radio nell'altro studio, ho fatto proprio una maratona di registrazione radiofonica, adesso ritornare qui nello studio dove tutto è già pronto online, infatti si vede bene all'inizio con la sigla che mi ero dimenticata un bottone, oddio, speriamo il direttore non mi stia ascoltando, se no mi mette in punizione. No dai, non ti preoccupare. Va bene, cara Andy, cioè si stanno scoprendo, avevi un sacco di timori prima di entrare in regia, ci stiamo, a parte i miei errori, stiamo andando alla grande. No, infatti, perché vabbè dai, mi emoziona la radio. Ma infatti ti sto vedendo anche in delle corde un po' nuove, ecco. Sei anche forse un po' più seriosa, magari vabbè, insomma, comunque credo di anche di aver capito perché cosa, perché ci stiamo apprestando al momento più strutturato della puntata di Coxo Spaziale, perché come tu ben sai, dopo la pubblicità delle 7:30 c'è quella cosa. C'è quella cosa. Quella cosa da leggere. Sì, esatto. A proposito, gli appunti li stai sfruttando? No, non ancora, è andato sì, detto. Un sì. Po'. Oh. Poco. No, non mi fare la voce del porno soccorso, no, che poi mi emoziona. Pasquini, Stefano, W. Pasquini, W. Va bene. Fedra Sibo, Oscaro e Dandy Investe W Joe per la 128esima puntata di Coxo Spaziale su 103.1 FM Radio Città Fujiko. Sono qui per voi se volete chiedere delle cose, tipo indovinare il nome di Elena con il premio che non abbiamo ancora capito. Che l'hai detto? Va bene, allora io mando la pubblicità, va bene? Mando la pubblicità, tu sei pronta che devi scattare là dove sei. Ah, ok. E per essere sicuri, noi stiamo ascoltando... Performance, ricerca, teatro. Perché questa è appunto una puntata su Andy Joe che riassume, queste sono le discipline che vengono riassunte nella prassi del nostro co-conduttore. E invece noi stiamo ascoltando... Stai ascoltando Coxo Spaziale. Don't go hungry, words have always nearly hung me. wants. Words of skill and words of romance are a pill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Eccoci alla seconda parte della 128esima puntata di Coxo Spaziale, che vede come co-conduttrice super mega galattica la mitica co-conduttrice di febbraio 2016 Andy in veste W Joe. Oh yeah, che mi si sposta sempre più dal microfono. Ok, adesso lo sposto così. Ok, e adesso infatti la vedo lì che sembra ad un quiz di quelli di Mike Buongiorno con le mani sulle cuffie. Sono pronta. Sono sì. Pronta anch'io, che guarda caso le ho pure dato il volume al microfono, contrariamente a mezz'ora fa. Perdonami, ti devo offrire da bere e, oltre che non so che cosa. Comunque, sei carica, ti vedo concentrata, sei sul pezzo. Sì, le so tutte, vado. No, aspetta, no. Vado io col jingle. L'angolo della menzione. Ore 20:30, The Second Closet al Cassero, proiezione del cortometraggio di Sara Luraschi e Stefania Menghini Azzarello. Un racconto intenso e onirico sulla violenza domestica in una coppia lesbica, che porta lo spettatore dentro il rapporto delle due protagoniste, Miki e Ann. Meravigliosa, hai rotto il ghiaccio. Come ti senti adesso? Molto meglio, veramente. E allora io posso rilanciare dicendoti che, oltre ad essere una menzione, è anche una menzione con telefonica, perché abbiamo in linea, ebbene sì, una delle coautrici, Stefania Menghini Azzarello. Ciao Stefania, sei ancora lì? Ciao Stefania. Sì, ciao a tutti e a tutti. Eccola, benvenuta al Coxo. Sono contentissima che tu sia qui con noi per la prima menzione di Andy in Veste W Joe. Anch'io, wow, grazie mille. Che entusiasmo. Tra l'altro ti dobbiamo ringraziare un sacco, perché quello che sta succedendo succede non tanto alle 20:30, ma adesso. Esatto. Quindi io dovrei essere in sala, però sono al telefono con voi. E invece ti sei fatta rapire dal Cox. Ma raccontaci un pochino come nasce questo progetto. Allora, The Second Closet è un cortometraggio fiction che nasce all'interno di un progetto europeo che si chiama Bleeding Love. È un progetto finanziato dal programma Daphne, che è questo programma europeo che si occupa di violenza domestica, e questo progetto riunisce varie organizzazioni europee, tra cui una italiana che si chiama Rete Lanford, Avvocatura per i diritti LGBTQ, che hanno fatto una ricerca su violenza domestica che subiscono donne bisessuali, lesbiche e transessuali. La rete Renford ha fatto un bando in Italia per videomakers per proporre un soggetto su questa tematica, cioè violenza domestica all'interno di una relazione affettiva tra due donne, e io e Sara Luraschi, che siamo le due insomma registe e autrici del corto, abbiamo vinto, e quindi poi da lì è partita tutta l'avventura del cortometraggio. Ok, non ti sto a chiedere quindi dettagli sulla trama, perché auspicabilmente, oltre che qui a Bologna, magari ritorna di nuovo in programmazione a Bologna, ma girerà e sarà facile trovarlo. Sì, in realtà il cortometraggio è già online. Perfetto, e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com il link per andare a votare, cioè a vederlo, e poi in caso piacciarlo e spalmarlo. Sì. Va benissimo. Sì, ora siamo qui al Cassero per un'iniziativa che è organizzata da Arci Lesbica Bologna insieme alla Casa delle Donne e a Rete Renford, e quindi insomma faremo la presentazione e proiezione del corto e poi dibattito sulla tematica in specifico. E che peccato che non possiamo essere lì anche noi, ma siamo qui in studio in diretta per la prima puntata di febbraio di Coxo Spaziale. Però siamo riuscite ad averla al telefono comunque. Sei stata meravigliosa, Stefania. Detto questo, mi sa che volevamo rubarti un altro minutino, perché la mia co-conduttrice di febbraio ha anche una domanda, è preparatissima. Vabbè, okay, dai, è una domanda pronta. Semplice comunque è un tema che è praticamente nuovo, perlomeno in Italia, perché comunque non ci sono praticamente, magari tu me lo puoi spiegare meglio, però insomma non ci sono altri film o anche altri libri o cose, insomma non esistono sull'argomento. Sì, praticamente allora, in Italia esattamente, cioè il tema è totalmente un tabù purtroppo, perché non c'è materiale sia a livello accademico che a livello più divulgativo sul tema. C'era stato fatto un report un po' di anni fa da Arci Lesbica Roma, che si chiamava Eva contro Eva, però i materiali sono veramente pochi, e anche a livello più cinematografico, a parte il cortometraggio francese sul tema, cioè penso che nulla, quindi siamo contente anche di poterlo pubblicizzare come insomma un corto abbastanza nuovo per originale per il tema, e originale ma anche voglio dire significativo a livello politico, perché appunto è un tema totalmente invisibile ma ahimè diffuso. Certo. E purtroppo non ci sono sportelli, non ci sono ci sono pochissime associazioni che si occupano di violenza domestica per coppie omosessuali, e quindi noi anche per scrivere la sceneggiatura ci siamo avvalsi di una serie di interviste sia dirette all'interno della comunità lesbica e sia un questionario anonimo, e ci siamo appunto rese conto quanto in realtà appunto la fenomena di violenza è un fenomeno che fa parte di tutte le coppie, cioè è un fenomeno purtroppo universale, cioè al di là della appunto uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, purtroppo le dinamiche di violenza psicologica o fisica ci sono nelle relazioni affettive. All'interno della coppia, che siano etero o lesbo, insomma esistono, esatto, ci sono. Sì, solo che il problema è che magari all'interno della coppia omosessuale, che è molto più difficile, per questo poi noi l'abbiamo chiamato the second close, diciamo il secondo armadio, denunciare, un po' perché appunto come dicevo prima non ci sono sportelli, e un po' anche perché denunciare vuol dire anche dichiarare il proprio orientamento sessuale e anche il rischio di comunque nella comunità, che magari come dire sono comunità un po' più piccole, c'è un rischio di isolamento, e quindi c'è proprio una difficoltà su tanti livelli. Certo. E quindi appunto con il corto cerchiamo un po' di dare questa raccontare questa storia d'amore con questi risvolti, perché poi quello che ci interessa è non dare una visione stereotipata della violenza domestica, cioè che c'è il mostro, la mostra, non so se vogliamo definirla femminile. No, infatti il corto è bellissimo proprio per questo, perché comunque non è uno stereotipo, è molto delicato, tocca tutti i temi, ma non è diciamo scontato, non è ovvio, non è, e poi rende anche molto bene la suspense comunque, non c'è un colpo di scena, oddio adesso arriva la violenza, ecco, che non è mai esatto. Così esplicita chiaramente. Stefania, io sono contentissima, dimmi. No, io infatti vi devo salutare perché vedo la sala piena, non vorrei che tocchi a me ad entrare. Allora, ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo. Grazie. Perfetto, mille grazie Stefania. A voi. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao, ciao. E che bel lavoro di come redazione coxica che mi hai fatto. Cioè, capito. Veramente, ti ringrazio, minchino, chapeau, meraviglia. Però adesso non dobbiamo perdere presa, si continua. Esatto, perché alle ore 22 sempre oggi ovviamente c'è il karaoke trash e di chi? Di Andy Joe. Ma no, cioè senza il W. Io senza W. Al Ganesh Disco Bar. Al Ganesh Disco Bar, un momento per l'aggregazione, lo sfogo e il puro divertimento, con tanto di pasta porno a mezzanotte per tutti e gara di hula hoop volendo prima della pasta. Ma la pasta porno che cos'è? È della pasta un po' porca, devi venire. Devo venire a scoprirla. È quella a scoprirla. E potrebbe essere il premio per chi indovina che ti chiami Elena, giustamente. A proposito di interazione, io sono arrivati ben due messaggi e anche qualcosa su WhatsApp, perciò andiamo con i messaggini. Vediamo se i miei potenti mezzi, forza, apriti. Telefono, ok. Ah, il primo dice: no, aspetta, mamma mia, gran voce la Andy Joe. Chi è che lo dice? Yeah. E poi dice: Elena, ho vinto. E lo diceva alle 7:27, forse un mezzo minuto prima che lo dicessi io. No, secondo me mezzo minuto prima, dopo che l'hai detto tu. Beh, insomma, qui che cosa ha vinto questa persona? Poi gli rispondiamo in caso. Io volevo mettere in palio un giro in moto con me. Meraviglioso. Ma allora ci inventiamo un altro nome. Allora no, ha indovinato Elena, perché l'ha detto, l'ha scritto e sancito dai messaggini del telefono, okay, di Radio Città Fujiko, il 333 180 94 94. Mandaci un altro messaggino qui sul telefono entro le 8, oppure su Facebook Coxo Spaziale, su Facebook appunto il profilo del programma radio, così capiamo come premiarti. Il premio è un giro in moto con l'Andy Joe, che lo voglio fare anch'io, però aspetta, beh devi indovinare il nome. Ma non è finita, perché ci sono anche i messaggini su WhatsApp. Dai. Attenzione, due nuovi messaggi. Ciao Fedra, ma non posso corromperti per avere un altro indizino in più, un altro massaggio relax a volano? In compenso so il titolo della canzone dei Tom Tom Club, quindi era un'altra persona che voleva che voleva partecipare e dire Elena. E fra l'altro questa è un estetista, lui ottimo, perché io ho un sacco è l'unico estetista maschio è finito anche su un giornale di quelli che nominavi tu probabilmente nella tua performance, sì. E quindi vabbè, è arrivato secondo, nel senso che non so, magari riprova per la prossima puntata con il secondo nome di Andy Joe, puoi cominciare già a studiare adesso e poi vedremo che cosa si vince. Detto questo, metto un altro lo stacchetto. E poi ci ripigliamo, abbiamo un sacco di altre menzioni in realtà, 4, ma le ascoltiamo dopo un altro brano? Vai, metto Cat Power e Between the Bars. Ah, metti Elliot Smith, che lo adoro. Ok. Drink up, baby, stay up all night. With the things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now, and forget all about the pressure of days. Do what I say, and I'll make you okay. Drive them away, the images stuck in your head. E c'era Andy su tutta quanta rilasciata in questo momento nostalgico. Non te l'aspettavi il jingle così proprio, però stava partendo già subito. Ottimo. E vai. Venerdì 7, ore 20:30, lettere dal 63 alla Biblioteca Meridiana. Allora verrò e vi prenderò a vivere qui. Qui è la vita. Le persone bevono casse di birra e mangiano tonnellate di carne. Ogni giorno mangeremo carne e altre cose buone. Tutte le cose migliori. Così scriveva Konstantinos dalle miniere di carbone in Belgio a sua moglie Teano in Grecia. Uno spettacolo di Teano Vavazziani. Ah, allora sì, perché scusa, in realtà in realtà sì, di questa cosa tu sai dirci, di questo evento tu sai dirci qualcosina in più, giusto? Esatto, perché è una mia amica, la conosco, è una teatrante greca di origine, ma che ha vissuto in Brasile e in Italia da 3 o 4 anni. E questo spettacolo è realizzato sulla base della raccolta di lettere che... Vere. Sì. Tra suo nonno e sua nonna praticamente, che poi dopo questa lettera, dopo qualche giorno morì in una, nel crollo di una miniera praticamente. Quindi molto romantico, molto bello, perché comunque racconta come vedevano a quel tempo queste cose semplici come la birra e la vita e il mangiare, il cibo. Lo stacco ci stava un po' così, così come forse ci sta il ritorno di Pasquini? Il ritorno di Pasquini, sono qui. Sono qui, giusto, di nuovo. Stavo giusto meditando anch'io sul passaggio del tempo e allora approfitto anch'io per fare una menzione, visto che qua è tutto magna magna. Ma dimmi un pochino, quando è questa menzione? Sabato, domenica, lunedì? No, è giovedì prossimo. Allora la lasciamo in coda, intanto andiamo avanti con sabato 6, ore 10... Playfight Bologna alle leggere strutture. Torna in città Bruno Caverna, danzatore di origini brasiliane, con un workshop che amalgama elementi di arti marziali quali la capoeira, il tai chi e il Russian sistema, con la contact improvisation e la danza contemporanea. E poi sempre sabato alle 23 Carnival Party Genital Panic al ho letto bene? Sì, perché Genital Panic al Locomotive Club. Parti per corpi performativi, accoglie e propone performance, live, cabaret, corpi e limoni legati all'immaginario e alle icone del femminismo pro-sex. Qui mi sa che mi devi fare un po' un approfondimento del new lessico, perché non ci ho capito granché. E tu Pasqua, ci hai capito qualcosa? Non ho capito niente, però volevo dire a Yumi Nicola che adesso si aspettano un secondo, gli porto il secondo. Sì, sì, però sembra una gran bella serata. Detto questo, continuiamo con martedì 9. Martedì 9, ore 20:30, Alice è in Paradiso di Guido Chiesa al Chinodromo, un evento per celebrare i 40 anni della nascita di Radio Alice. Una serata speciale in cui Chinodromo omaggia Alice, che tanto ha significato nella storia di Bologna. E quindi, sì, scusa, serata dedicata a Radio Alice. Invece prima volevo dire che ci sarà questa serata Locomotive organizzata da Betty and Books, che come tutti sanno, aveva un sexy shop. Su questo ritorniamo tra un attimo, che facciamo fare a Pasquini la menzione del giovedì prossimo, a questo punto 11 che così febbraio. Poi va a dare il secondo ai suoi figli ed è tranquillo. Ecco, okay. Che sono già lì che litigano perché hanno fame. dicevo, a partire dall'11 febbraio per 10 settimane successive, con la collaborazione dell'associazione Includendo, l'associazione si chiama Includendo, le dottoresse Elena Lo Sterzo, Ambra Cavina, Maria Letizia Rotolo propongono percorsi psicologici per affrontare senza stress il tempo che passa. Piccola pausa perché è meditativa per me, presso il Circolo Arci Benassi in Viale Cavina 4, tutti i giovedì dalle 9 alle 13. Posso andare? Vai. Non voleva andare. Senti Pasqua, allora, ma come siamo andate? Come ti è sembrata questa Andy in versione W Joe? Ce ne vorrebbero due di lei e io a casa. Mi tocca di venire a conoscerla dal vivo, non posso ascoltarla solo da qua. Ma fra l'altro sono arrivati un sacco di messaggini sulla sua voce, molti hanno indovinato anche il suo nome prima che lo spoilerassi io. E vabbè, dai, che cosa gli porti di secondo ai tuoi pargoli? No, è meglio non dirlo perché sono un pessimo genitore. I sofficini. No! Pessimo genitore vegetariano, e va bene. Pasqua, è stato un piacere. Allora, veramente, grazie a Dandy Investe W Joe, potrò averti di nuovo qui dall'altra parte del vetro, i 2W, quello Investe e quello vero. Absolutely. Ciao! Ciao! Vabbè, non si capisce più niente con questi sacchetti che ti appalla, però abbiamo detto tutte le menzioni, cioè, sì, pazzesco. Ce l'abbiamo fatta e le abbiamo lette benissimo, direi. Quasi, sono le 53, quasi quasi finiamo anche l'anticipo. No, io però ho un altro tuo file di performance, potremmo ascoltarne giusto un 2 minuti, poi ci racconti qualcosa e poi via con le pubblicità delle 8 e poi cediamo il passo a Stefano Migliore, che è stato in Veste W settimana scorsa, ma che in realtà è il co-conduttore di Paura in palcoscenico dedicato al cinema, subito dopo di noi. Ok. Vado con La Rabbia Italia? Sì, La Rabbia, si chiama La Rabbia perché l'ho fatto a Londra, allora quello di Londra si chiamava Londra. Ah, ok, bello, mi piace. Cosa volete da me? Perché mi guardate così? Cosa ne so io? Cos'è un uomo? Io sono un prete. Il mio spirito brucia nello stomaco. Qualcosa è successo. Qualcuno si è ammalato ed è morto per amore. E allora? Io cosa c'entro? Io ho fatto il possibile, ho fatto quello che potevo, ciò che c'è scritto nel Vangelo. Niente più, niente di meno. E non c'è nient'altro oltre il Vangelo e Dio. Pentitevi. Io sono a posto. Io sono a posto con Dio e con me stesso. E se qualche grado di colpa io posso avere in questa grande sciagura, sarò lieto a sacrificare la mia vita, secondo le più severe leggi. Ma ora, lasciatemi tornare a casa, nella mia chiesa. Devo preparare le ostie, il pane e il vino, per domani che è domenica, per i fedeli che verranno alla messa, i miei fedeli. C'è una famiglia che viene tutte le domeniche. I genitori hanno perso il lavoro a causa della crisi economica, ma questo non ha fatto altro che rafforzare la loro fede. Ed eccoci ritornati, mi dispiace che è stato velocissimo perché in realtà il tempo è tiranno anche qui. E che cosa abbiamo ascoltato in 2 minuti? Allora, dovete venire a vedere la performance perché così vi rendete conto che cosa è. Questa è la voce di la prima parte della performance che si chiama La Rabbia, e questo è un prete che ha praticamente, un prete straniero che ha dei dubbi sul suo essere prete, perché lui ama anche la bellezza, ama la vita, ma ama anche Dio, quindi è diciamo ha questi sentimenti contrapposti, non sa cosa scegliere, e questa è la prima parte. La seconda parte invece c'è Gesù Cristo proprio, diciamo, al femminile, che parlerà e farà un sermone, diciamo, su i drammi della vita quotidiana. E allora su queste immagini, sulle quali magari ritorneremo da partire dal, dal COXO 129 la settimana prossima, Andy in veste W, Gio vestirà le veste W, Andy Joe per le prossime tre puntate di COXO Spaziale, e ci risentiamo qui da giovedì prossimo su FM 103.1 Radio Città Fujiko, e se no domani su www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete tutti i link, anche quello per riascoltare questa mega galattica puntata. Grazie Fedra. Grazie a te. A presto. Batman in New York, London in Paris, where will we rest? We're all living on top of it. It's all that we have, the USA is our daily bread, and no one is willing to share it. Why can't we see a fortune to see? Living as legends have lived. Bane in this manner recurs all the time, knowing that nothing is left when we die. Come along, fool. Let your head hit in the senses, you're disconnected. It's not that it's bad, it's not that it's dead, it's just on the tip of your tongue and so silent, wanting to let it laugh all the time, sitting. Steps in the